che è una cosa insidiosa, perché certo, può essere costato 38 milioni, ma poi se quello che ti istruisce gioca bene, ecco, va bene. Per fortuna la moglie partorì prima, lui si presenta al campo, Capello lo guarda e dice: tu oggi giochi, 4 gol, via. Senti, oggi mi piace Andres Iniesta. Ah, Iniesta, sì. Sì, signore, sul campo e fuori. Senti, tu tifi Torino però, sì, è vero, certo, che un po' ti piace perdere, quindi si capisce. Però adesso al Torino c'è Cairo, che è un vincente, insomma, con l'età passi un po' dall'altra parte, o speri? Ma guarda, per la verità le cose più emozionanti sono stati i tanti anni in cui abbiamo lottato per la retrocessione. Stare a metà classifica non mi interessa. Non ti diverte. Non mi diverte. Quando abbiamo vinto andrete l'unico, quasi in Coppa UEFA adesso. Ma la Coppa UEFA è una coppa ridicola. Il, non so, il, lo diceva mi pare Boniek l'altro giorno, non so. Vabbè, comunque, certo, se quando abbiamo vinto l'unico campionato come gemelli del gol, ti sei divertito. Ero a Torino insieme a Aldo Casso, che ho visto piangere solo in quelle occasioni. Addirittura ha pianto. Ha pianto Aldo, se lo conosci, è un cunese. Sì, sì, lo conosco, ahimè. Senti, volevo dirti un'ultima cosa. Sì. Se ti definissi un perdente di successo, ti va bene? E come mi definirei io, è perfetto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblico. X24. Mario, c'è un titolo per l'intervista di Fini? Ne ho due. Dimmeli. Il primo è secco, finish. E il secondo invece è un po' più lungo, è il navigatore controvento. Ah, bello. Pietrangelo, tu? Pronto? Spiega la fine. Non ho capito. Il Fini che spiega la fine. Ah, bene, bene. Mario, vai con la tua bolla. Prego. La regia. Non parte niente, vabbè, non succede. Vabbè, non importa, io. Vai con la tua bolla. Parto io. No, volevo proporre un quesito a te e a Pietrangelo. Allora, all'Italia cerca un nuovo compratore. MPS, la banca Monte dei Paschi per intenderci, la banca più antica del mondo, viene salvata dallo Stato. Mediaset viene scalata dai francesi. Sono tre storie diverse, però hanno qualcosa in comune, secondo me, perché la compagnia aerea nostra da 20 anni non fa utili, non sono riusciti neppure gli arabi di Etihad a metterla in questa impresa. MPS è diventato un caso finanziario, un thriller da manuale, e Mediaset sembra, almeno così, la fine di un ciclo, cioè la fine, certo, del ciclo di Berlusconi. Ora, che cosa è successo al capitalismo italiano? Del Berlusconi italiano? Imprenditore? Certo, ovviamente. Quello politico sembra pieno rilancio. Mi pare che stia continuando. Allora, che cosa è successo al capitalismo italiano? E se ha senso poi tutta sta roba che io ho visto dei patrioti, la difesa dell'italianità? Ma sai, francamente, la difesa dell'italianità... Cosa vuol dire? Per la difesa dell'italianità per Mediaset è un discorso complicato, perché... È vero che ci sono professionisti enormi come De Filippi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Barbara D'Urso, Paolo Bonolis, però l'italianità, che è quella è la difesa dell'italianità, può darsi, però insomma, non lo so, ecco, mi sembra un po' difficile. Abbiamo perso senza battere ciglio una quota rilevantissima del risparmio italiano vendendo Pioneer, abbiamo perso l'acciaio con l'Ilva, abbiamo perso Telecom, svendiamo tutto, adesso che l'italianità sia a difendere sia Barbara D'Urso, può darsi, però insomma non sono sicuro. Senti, ed MPS che cosa ti fa pensare a te? Beh, l'MPS mi fa pensare al disastro dell'intreccio fra politica e finanza. È così. Perché... E lì è proprio il simbolo di una tragedia. E all'Italia? Perché all'Italia era un pezzo d'immaginario. È finita quella roba lì. È finita. Pietrangelo, c'hai la tua bolla? Il tuo salamino? L'ha già detto. Vai. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. La farmacia, un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini, uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base. sex and drugs and rock and roll. Quattro anni fa il decreto Cresci Italia sulle liberalizzazioni previste 2.500 farmacie in più sul territorio nazionale, una ogni 3.300 abitanti. Nel Lazio esplode la protesta dei farmacisti che hanno accettato la sede al primo interpello. Assegnate solo 63 sedi, le altre 200 congelate. Ci spiega perché Basilio Perugini, uno dei vincitori del concorso straordinario indetto nel 2012 nel Lazio. La Regione Lazio ha 274 sedi da far aprire. Dal 2012 la graduatoria è riuscita a tirarla fuori solamente a dicembre 2015. Poi a maggio del 2016 sono state accettate le sedi da vari vincitori. Dopodiché manca l'atto amministrativo per ufficializzare l'assegnazione. Da una parte ci siamo noi impegnati in proteste, ma dall'altra il responsabile dell'area farmaco della Regione Lazio, che comunque ha paralizzato l'evolversi del concorso. A cosa è dovuto il blocco nella Regione Lazio? Nella provincia di Latina sono state messe a concorso 6-7 sedi, però appena messe a concorso il TAR di Latina le ha bloccate per un vizio di forma. Adesso la regione si è impattata perché non sa più quello che deve fare. E così facendo però ha bloccato tutti gli altri. Però il dirigente, che probabilmente è il dottor Panella, lui aspetta la fine di tutti i ricorsi di Latina e compagnia bella. Abbiamo cercato noi il dottor Vincenzo Panella, direttore generale della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio. 16 dicembre, ore 10:30. Pronto? Salve, chiamo da Mix24, Giovanni Minoli. Stavo cercando il dottor Panella. Guardi, il dottor Panella è fuori per un impegno esterno. E quando lo posso trovare? Credo intorno a mezzogiorno sarà di ritorno. Va bene, allora riprovo dopo, grazie. E dopo la... Scusa. 16 dicembre, ore 12. Pronto? Pronto, salve, chiamo da Radio 24. Stavo cercando il dottor Panella. Guardi, il dottor Panella è impegnato in una riunione. Ok, volevo fargli semplicemente una domanda sulla questione delle farmacie. Quando posso trovarlo? Guardi, provi fra una mezz'ora. 20 dicembre, ore 11. Pronto? Pronto, buongiorno. Chiamo da Radio 24. Stavo cercando il dottor Panella. Non c'è il dottor Panella, è fuori per un impegno. Guardi, io da un po' di giorni che chiamo. Lo so, sì. Non c'è altro modo per mettermi in contatto con lui? No. Guardi, lui dovrebbe rientrare nel primo pomeriggio, perché è in consiglio regionale. Posso parlargli, secondo lei? Aspetti, vediamo un attimo l'agenda. Intorno alle 15 dovrebbe essere qui, spero. Va bene, allora che sia rientrato dal consiglio regionale. Va bene? 20 dicembre, ore 15. Aspetta, pronto? Chiamo da Mix24, Giovanni Minoli. Sto cercando il dottor Panella. Sì, un attimo solo, Grazie. Prego. Pronto? Pronto, è dottor Panella? Sì. Salve, buongiorno, io la chiamo da Mix24, Giovanni Minoli. Volevo farle una domanda, poiché ci siamo occupati del caso dei farmacisti della Regione Lazio che stanno aspettando, le farmacie sono state già assegnate e stanno aspettando il via libera per aprire queste farmacie. Mi può spiegare per quale motivo non riescono ad aprire? No, ma non è che io non va bene, le posso spiegare, ma non sono la persona responsabile del congelamento, perché sono loro stessi i responsabili della situazione nella quale si sono infilati. Su questo concorso gravano due filoni diversi di ricorsi. Il primo filone, diciamo, è una serie di ricorsi fatta da altre associazioni di farmacisti titolari su quale deve essere l'organo deputato a stabilire la pianta organica. Quindi sono degli altri farmacisti che hanno sono già... quelli che ce l'hanno già. Quindi noi non sappiamo se la graduatoria verrà confermata oppure no dai tribunali amministrativi nell'ordine in cui è stata adottata dalla regione oppure no. Quanto tempo devono ancora aspettare i farmacisti? Guardi, vincitori per aprire? Allora, guardi, per la prima questione, anche se si potesse procedere, la graduatoria è comunque gravata dai ricorsi dei singoli sulle posizioni, cioè da quelli che hanno perso, diciamo. Comunque continueremo a fare l'assegnazione con riserva. E quindi quanto tempo ci vorrà? In qualche settimana, mese, il tempo di fare le altre 140 delibere che bisogna fare, e mano a mano le attribuiamo, ma con riserva. per lo scioglimento della riserva sono i tempi della magistratura amministrativa, che io non... Quindi insomma, per riassumere, dopo aver cercato per 5 giorni il responsabile, proviamo a capire, per uscire dal burocratese, questo palleggio continuo di rinvii, tutti naturalmente burocraticamente correttissimi, che bloccano, l'abbiamo sentito, il lavoro di 1000 persone che hanno già affittato locali, allestito le farmacie, quindi investito soldi. Abbiamo usato questo esempio perché è uno dei tantissimi esempi kafkiani che sottolineano in concreto la difficoltà di fare investimenti in Italia e l'urgenza assoluta della riforma delle procedure e quindi della pubblica amministrazione. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Con migliaia di papaveri rossi, i paesi anglosassoni ricordano l'11 novembre di ogni anno i caduti di tutte le guerre. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fanveglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Alle ore 11 dell'11 novembre del 1918, con la firma dell'armistizio, si mette fine alla Prima Guerra Mondiale, un conflitto totale durato 5 anni che aveva insanguinato l'Europa. Così dicevi ed era d'inverno. 60 milioni di combattenti, 18 milioni di morti, 20 milioni di feriti. Un numero di perdite che nessun conflitto aveva mai raggiunto prima. E anche un nuovo modo di fare la guerra. Si calcola che il 70-80% delle ferite sia stato provocato dall'artiglieria, mentre gran parte delle altre lesioni sia stato causato dalle mitragliatrici, determinando un numero di perdite che nessun conflitto precedente aveva raggiunto. Un esercito come quello francese perde 900 uomini al giorno in battaglia, 900 soldati uccisi ogni giorno, mentre i feriti sono 3 o 4 volte tanti. 900 soldati in media uccisi ogni giorno tra il 1914 e il 18. Mai nessun esercito aveva subito tali perdite, nemmeno nei grandi conflitti come le guerre di secessione americane, nemmeno durante la guerra franco-prussiana del 1870, nella quale pure le perdite erano state ingenti. Un colpo spara gli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra, coprire il suo sangue. Se gli spari in fronte o nel cuore. Dopo il giornale radio, quindi una puntata dedicata alla Prima Guerra Mondiale finita con l'armistizio di Compiègne in Francia. Salamino. E manco il rimestolo, c'è sempre stato Restolo. Matteo Renzi manca l'appuntamento con la gigantesca cronaca politica, non può fare il rieccolo come Amintore Fanfani, non torna. Non può fare il rimestolo con Paolo Gentiloni, pur con i suoi evergreen Luca Lotti e Maria Elena Bostic, che sono solo benzina per la propaganda altrui. Perché direttamente dalla storia, suprema Biancaneve di tutti, arriva, anzi non se n'è mai andato, Restolo! Tu scendi dalle stelle, Silvio Berlusconi è il grande Restolo di queste festività. La crisi di governo arrivata inaspettata dopo la batosta del no al referendum non ha più visto protagonisti 5 Stelle impiastricciati più che impantanati sulla vicenda Raggi a Roma. Non è stata un'occasione per la minoranza del PD o per la sinistra, sempre più minoritaria nell'Italia, che mette insieme Natale, Pasqua ed Epifania. E chi dunque, Giovanni, se non lui, il cavalier Restolo, regale come un cuoco, può ben dire? Ma chi sono io? Babbo Natale? Eh? Ah, altro che rieccolo, tutte le apparizioni di Matteo Renzi a reti unificate se le può andare a riciclare adesso, Giovanni, dove? Nel nuovo progetto Rai, e fare replicare in elegante lingua inglese nella programmazione mondiale, universale, internazionale, che dalla Papua alla Lapponia, dalla Nigeria alla Manciuria, possa confermare il carisma del rottamatore. Tutto il mondo ce lo invidia. Tutto il mondo ce lo invidia, e sarà la volta buona che qualche Mao Mao se lo prenda. Altro che rieccolo. Prima a ricevimento al Quirinale. A ricevimento al Quirinale. con Berlusconi presente non ce n'era per nessuno. Si accompagnava la bellissima e rapinosa Laura Ravetto, quindi all'ambientalista Maria Vittoria Brambilla, assai ambientata tra le austere stanze, arrivava e non salutava Giorgio Napolitano e portava oro, incenso e mirra a tutti, soprattutto a Gentiloni, da lui considerato tra i bimbi più buoni. A lui darà senatori e deputati e si libera di Forza Italia. Altro che rieccolo, è il tempo di Restolo. Brizza felicità, gli arrivano i milioni di bollore a Mediaset e così si toglie il pensiero di fare gestire al figlio l'azienda, si toglie il Milan, si libera del partito appunto, ma non della politica, porta in dono la grandissima intesa di tutti insieme, tutti. Sposa l'idea del reddito minimo di cittadinanza, la bandiera dei 5 Stelle, e alla presentazione del libro di Bruno Vespa, da lui usata come Babbo Natale ad opera il comignolo da dove apparire, porta in dono il futuro premier per il restolo degli anni a venire. Mario Draghi, e sarà sempre in tomba. Vabbè, i nostri auguri di Natale ai nostri ascoltatori. Li fa Gloria Guerrera oggi dedicando che cosa? Oggi una canzone per noi ragazzi degli anni 90 che amiamo la radio. Radio Estensioni su Subsonica. Un espediente elettrico, risveglio il mio cuore letargico, smarrito in un sonno dal pigro, contorno una radiofrequenza, la oscilla per me. Dell'etere plastico, forse piloto un destino romantico, cerco un libero approccio ad un libero attracco, una libera radio fa parte di me. Radio e sensioni conducono e magneticamente azioni, radio e sensioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensioni conducono e magneticamente azioni, forse perché radio e sensioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sensioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Surfando sull'onda più anomala, c'è gente che smuove e colpisce le cose nella radiofrequenza che oscilla per me. Colonne sonore in libertà che tengono sveglia la notte, poi riscaldano il giorno, ritrovo un contorno e saturo pregno e degno di me. Radio e sensazioni conducono e magneticamente azioni, forse perché radio e sensazioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensazioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sensazioni si nutrono con autentiche